Questa casa non è un albergo. Festa e noi festeggiamo insieme. Per me devo dire sempre una festa, perché arrivo in studio e qua sorridente, rassicurante, Alberto. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Pensa che privilegio, io sono anni che riesco a fare le feste di Natale con te e con Radio 24. Beh, non è mica è una grande fortuna. E a casa com'è andata? Molto molto bene, sai che abbiamo fatto un giorno di grande festa tutti da noi, tanti bambini, ma oggi è il giorno dopo la festa e continuiamo a festeggiare perché abbiamo una puntata davvero speciale. Alberto, tu abiti in un paese di provincia e mi chiedevo se avete una banda. C'è una banda che tra l'altro ha lavorato tanto proprio nella settimana prima di Natale. C'è questa tradizione di fare proprio dei concertini davanti ai cancelli di molte case della nostra città, e questo è anche un modo per finanziarsi. Più o meno così. Mette sempre allegria, ma oggi noi vogliamo chiederci, vogliamo riflettere insieme anche ai nostri ascoltatori, quanto la banda sia importante in queste realtà di provincia, perché purtroppo nelle città si incontrano meno, per coltivare la passione musicale di chi sta crescendo. Sì, e credo anche non solo banda come scuola di musica, ma probabilmente anche banda come scuola di vita. Allora, adesso io ti prendo per mano perché ti porterò... Vedi che ti allarghi sempre. Sì, mi allargo. Ti voglio portare a conoscere un musicista di fama internazionale, ma abbiamo scoperto che forse tutto è partito da una banda, e partendo da una banda senti un po' a che cosa è arrivato. La tromba diventò il mio strumento e difficilmente me ne separavo. Di giorno la portavo in campagna per esercitarmi e la sera andavo ad ascoltare le prove della banda musicale Bernardo De Muro, diretta da su mastro Tiu Bustiano Piga, e sognavo di entrare a farne parte. Conoscevo tutti i componenti e sapevo a memoria ogni marcetta e aria d'opera, dalla Lucia di Lammermoor fino alla Ida, da Topolino e Venezia a Pianti e Fiori, Lacrime e Mesto Ricordo. Li seguivo in tutte le occasioni. E a 10 anni mi iscrissi finalmente alla scuola della banda, con il sogno di suonare la tromba fra le sue fila. A dire il vero, all'inizio il maestro voleva che suonassi il clarinetto o il bombardino, ma ormai ero innamorato della tromba e fui irremovibile. Del resto l'avevamo già in casa e i miei non potevano certo comprarmi un altro strumento. Alberto, adesso però, tu mi hai preso per mano, ma adesso la levo perché adesso è facile. Il suono è inconfondibile. Tra l'altro, pensa, Nicoletta, ce l'abbiamo in anteprima, perché questa è tratto da una colonna sonora del film 7 ottavi, uscito nel 2006, ma che diventerà un CD il 29 gennaio e noi lo stiamo ascoltando in anteprima. Ma soprattutto abbiamo in linea con noi Paolo Fresu. Ciao Paolo! Ciao, buongiorno. È bellissimo ascoltare questo brano, perché effettivamente, voglio dire, è un'anteprima assoluta, quindi anch'io dicevo, ma che strano. Quindi insomma, avete avuto un bel dono natalizio anch'io al sentirlo così da lontano, quindi buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie per avermi coinvolto a parlare di bande, la mia passione. Senti Paolo, io chiedo a Carmelo Lauricella di farcene sentire ancora un pezzettino, perché già che ci siamo fatti questo regalo magnifico, godiamocelo. Bene, grazie. E Paolo oggi è con noi perché, oltre che una musica meravigliosa, ha scritto anche un libro, Musica Dentro, pubblicato da Feltrinelli, appena uscito, da cui abbiamo scoperto che tutto è proprio cominciato da una banda del paese di Berchì, del paese natale di Paolo. In realtà leggiamo tra le pagine del libro una vita molto avventurosa, un uomo di grande talento, ma anche... un ragazzino che era già, sapeva già quello che voleva, Paolo. Ce lo siamo visti muoversi dalla scuola superiore al conservatorio, agli ambienti del jazz della sua città, con una grande poliedricità. Ma se non ci fosse stata la banda, cosa sarebbe stato di Paolo Freso? Beh, non ci fosse stata la banda, non sarei diventato probabilmente un musicista, non sarei diventato un musicista di jazz, non avrei avuto modo di conoscere il mondo come ho potuto fare, non avrei imparato tante cose. Insomma, la banda per me è stata tutto, perché come appunto è scritto nelle pagine del libro, io la guardavo passare, la seguivo, andavo alle prove, mi ricordo gli odori, le luci da neon di questa sala enorme dove gli strumenti erano appesi negli attaccapanni senza custodia, mi ricordo i racconti degli anziani. Insomma, la banda, come avete detto voi giustamente all'inizio, bellissima espressione, non è solamente una scuola per imparare la musica, ma è soprattutto una scuola per imparare a vivere. Soprattutto allora, ma io spero anche adesso, perché quando ho iniziato io naturalmente c'erano pochi computer e poche televisioni, e quando io, la prima volta che io sono uscito dal paese per andare fuori è stato grazie alla banda per fare un servizio nel paese vicino. Quindi insomma, la banda è veramente una scuola straordinaria, io spero che le bande continuino ad esistere, poi hanno un senso addirittura più importante nei centri piccoli, perché la banda è il primo segno forte di aggregazione. In un momento storico in cui si tende anche, come dire, ad essere un po' disuniti, ognuno si chiude nel suo piccolo, io attraverso la banda ho imparato veramente tutto, non solo le note della tromba, non solo il repertorio, ma soprattutto un modo di essere, un modo di vivere, di condividere le esperienze con gli altri. Insomma, quando sono arrivato al conservatorio, io che venivo dalla banda ero più bravo degli altri. Questo è molto importante, perché c'è un aspetto sostanziale, cioè quando si suona in banda si ha dal primo giorno l'opportunità di condividere la musica con gli altri. Uno fa poche note, quelle poche che sa fare, ma dietro di noi magari c'è quello più bravo, quello che fa la svisata, quello che suona la melodia in modo diverso. Quindi questo è bellissimo, perché siccome la musica è un qualcosa che si fa assieme, attraverso la banda c'è veramente un concetto di condivisione che è unico e straordinario. Quindi sono molto, devo dire alla banda, sì. Senti Paolo, nel tuo libro tu racconti un particolare tenerissimo, direi commovente. Tu che sei abituato ai grandi palchi di jazz di tutto il mondo, quando torni al tuo paese natale alcune volte proprio ti rimetti a suonare nella tua banda, di paese in paese, e tutte le volte provi un'emozione diversa, ritrovi quella che avevi quando suonavi facevi proprio parte della banda. Che cosa succede? Beh, insomma, l'emozione degli inizi è indimenticabile. Quando ho avuto la prima giacca, mi ricordo perfettamente, era una giacca di un colore rosso particolare con queste cose dorate, insomma, quando sono arrivato a casa con questa cosa, e io ero non poteva esserci nient'altro di più, non solo per me ma anche per la mia famiglia. Ma lo credo. I miei genitori sono sempre stati contentissimi. Io mi ricordo mio papà, quando ero piccolo, siccome mio papà lavorava in campagna, ad una certa ora smetteva di lavorare, mi portava in paese, perché io potessi andare a frequentare le lezioni di musica, insomma, quindi è sempre stato. Ma tuttora mio papà, che ha 86 anni, mi dice: ma hai telefonato ad Antonio che così vai a suonare alla processione? Io dico sì, non preoccuparti, certo, ma lo sanno perfettamente, ormai quando arrivo a Pasqua, quando c'è la processione, desse incontro, anche l'incontro di Maria e Gesù, eccetera, io sono sempre presente. E quest'anno la banda mi ha fatto un regalo bellissimo, perché hanno fatto le nuove divise e hanno fatto la divisa anche per me, naturalmente. E la mattina del 10 di agosto del 2009 abbiamo iniziato il festival di jazz, quello che io dirigo proprio a Berchisa, proprio con un concerto della banda tutti in divisa alle 5:45 del mattino per vedere il sole che sorgeva dietro l'isola di Tavolara, con tutti i nuovi ragazzini e ragazzine che erano entrati nella banda adesso, per cui insomma è un'esperienza, come dire, non ci si può dimenticare di questa cosa che è veramente straordinaria. E poi tu la descrivi così bene che a noi sembra di essere lì a guardare la banda. Adesso noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulla strada e sulle autostrade e poi torniamo insieme e spero rapidamente con Paolo Fresu. Questa casa non è un albergo. Siamo tornati insieme a Paolo Fresu e, come suggerisce suo papà, chiama Antonio. Noi Antonio l'abbiamo chiamato in linea, abbiamo il maestro Antonio Meloni che è direttore della banda di Berchidda. Buongiorno maestro. Buongiorno a tutti. In linea abbiamo anche Paolo Fresu, so che siete prossimi a suonare insieme, diamo un'altra anteprima. Ci stiamo preparando, tre trombe, non solo Antonio ma anche un altro ragazzo giovane che si chiama Domenico Del Rio, e quindi stiamo preparando addirittura un repertorio su Charles Mingus, poi accompagnati da un bellissimo quintetto di jazz, quindi insomma l'aria è frizzante. E tutta Berchidda sarà in festa per questo magico concerto, ma siamo davvero curiosi di sentire Antonio Meloni, perché Berchidda è un paese di circa 3.000 abitanti e quante persone avete nella vostra banda e in particolare quanti ragazzi ci sono nella vostra banda? Allora intanto è composta più o meno da 46 elementi, insomma più o meno 20 elementi vanno da una fascia di età che va dai 30 anni ai 70, forse anche di più, e poi ci sono altri tipo 26 elementi che vanno dagli 11 anni ai 30, quindi in prevalenza è una banda anche abbastanza giovane. E per questo appunto si può immaginare come c'è questo rapporto anche tra i grandi e i piccoli, insomma c'è un ponte anche che trasmette la tradizione appunto degli anziani ai più piccoli, e allo stesso tempo i più piccoli trasmettono anche un po' la modernità, il futuro, e quindi si sta insieme, insomma è una bella cosa, quindi non è anche solo un'esperienza musicale ma anche sociale, appunto psicologica. Certo, Paolo e Alberto dicevano proprio un po' una scuola di vita, insomma una bella banda, come si dice, no? Maestro? Sì, può essere anche la vita, la banda, lo stare insieme, insomma il condividere esperienze quando si esce fuori anche negli altri paesi della Sardegna, non solo, anche nel continente, e quindi si condividono tante esperienze importanti che fanno crescere, quindi sicuramente è una scuola di vita. Ma sono proprio i genitori che, avendo frequentato la banda, poi iscrivono i loro figli alla banda? Perché io quando ho sentito questo numero mi sono immaginato, siccome la banda di Berchidda e la banda di Paolo Fresu verranno da tutta la Sardegna. Dicono, per suonare con voi. Dicono, magari divento anch'io un nuovo Paolo Fresu. Ma certo, anche i genitori consigliano, perché poi sono i genitori stessi che suonano, fanno parte della banda e poi si aggiungono anche i figli, abbiamo questo tipo di cosa, sì è vero. Sì, poi piano piano stanno anche arrivando da altri centri, si iscrivono anche i corsi da altri centri, si stanno creando anche delle opportunità di insegnare anche per noi, poi c'è Paolo che insomma stimola sempre coi seminari di Nuoro, lo stesso Domenico, questo allievo suo che suonerà, che fa parte già della banda, è stato nostro allievo nella banda, poi ha continuato con lui nei seminari e quindi si ritrova in questa bellissima esperienza, è la prima volta per lui che suona in un contesto proprio jazzistico così, ma vi assicuro insomma che sarà una bella serata, insomma questo viaggio con Mingus. Ah, ma questo è assicurato. Paolo, tu dicevi, quando sono arrivato al conservatorio, io che venivo da una banda ero più preparato. Sì, perché ero più preparato perché appunto avevo fatto questa esperienza di vera condivisione, cioè io sono entrato nella banda a 11 anni e il primo giorno che sono entrato in banda ho condiviso la musica con gli altri, ripeto, io suonavo malamente ma dietro di me c'erano i trombettisti bravi, insomma c'erano tanti musicisti molto bravi, quindi io sentivo loro, imparavo da loro, ma soprattutto i pochi suoni che io sapevo emettere con lo strumento, anzi poi le partiture le conoscevo bene perché avevo già sentite prima, i suoni che emettevo col mio strumento erano comunque vestiti bene dai suoni degli altri, questo è un fatto molto, molto importante, quindi la banda offre l'opportunità di sviluppare una musicalità veramente totale. Quando sono andato al conservatorio mi sono reso conto purtroppo che per esempio i pianisti che erano con me nel corso di teorie sul solfeggio eccetera eccetera non avevano magari, cioè mi rendevo conto che alcuni musicisti si iscrivevano al conservatorio e per 6-7 anni non avrebbero mai avuto l'opportunità di suonare con gli altri, di condividere la musica con gli altri, se non magari nel corso, penso, di canto corale del conservatorio, ma a casa, fuori dal momento del conservatorio, questo non era possibile. Io invece, come dire, ero al conservatorio, ma allo stesso tempo a casa avevo la possibilità di condividere la musica con tutti, quindi ero preparato in solfeggio, magari la tecnica strumentale non era straordinaria, perché il maestro Tiubustiano Piga doveva insegnare tutti gli strumenti, cioè dal flauto, al sassofono, al bombardino, alla genis, alla gran cassa, il rullante, cioè doveva insegnare veramente tutti gli strumenti, quindi è chiaro che non poteva avere una preparazione tale da insegnare bene tutti gli strumenti, però invece la musicalità, che è quella cosa fondamentale soprattutto per un giovane, e anche le nozioni di teoria e solfeggio erano veramente perfette, quindi quando io sono andato al conservatorio ero il più bravo della classe, ma non perché studiassi, ma perché effettivamente avevo fatto questa scuola importante della banda, che era stato un apprendistato veramente fondamentale, quindi bene, direi è un fatto molto importante. Ma c'è un altro punto che racconto anche bene nel libro, che quando la banda finiva la processione si ferma, i più bravini si fermavano davanti al bar della piazza e magari Piero Fresu col trombone, Giovanni con il sassofono, Armando e gli altri, iniziavamo a suonare i ballabili, cioè le cose sudamericane di Perez Prado, oppure i valzer e le mazurche di Casadei, e la gente li si metteva a ballare, il barista tirava fuori un po' di bottiglie di birra Ichnusa oppure di Vermentino, per cui oltre alla banda c'era questa esperienza, diciamo, dei piccoli combo, un po' quasi come nel jazz, che si mettevano le strade e iniziavano ad improvvisare, e lì nasce tutta la tradizione poi dei complessi di musica leggera, che a Berchida sono sempre molto presenti, sono piccoli gruppi che suonano nei matrimoni e che poi alcune volte vanno anche in giro per la Sardegna a suonare nelle feste patronali sul palco della piazza, dando l'opportunità alla gente di ballare. Ecco, quindi la tradizione della banda non finisce attraverso la processione o il concerto, ma continua poi attraverso quest'altra esperienza meravigliosa, che è quella dei gruppi musicali. Io vi sto ascoltando, Paolo e Antonio, con lo stesso spirito con cui probabilmente ci stanno ascoltando tanti papà e mamme all'ascolto della nostra trasmissione, cioè intuisco proprio dalle vostre parole che esperienza, che scuola di vita può essere una banda di paese, di provincia o anche di una grande città per un figlio, ma mi viene questa curiosità, immaginiamo che un papà voglia dare questo consiglio al figlio, prova a iscriverti a una banda, prova a vedere che esperienza è per te, come la banda sceglie lo strumento più adatto per un ragazzo o una ragazza che vogliono cominciare questa esperienza? Alcuni si prova e poi si vede, insomma, alcuni bambini sono più portati, o ragazzi sono più portati per esempio agli strumenti a dancia oppure allo strumento a bocchino, quello si vede dalla costituzione, altri per esempio sono più portati per la batteria e a nessuno degli strumenti a fiato, quindi né a dancia né a bocchino, e quindi si sceglie e poi man mano si prova e si valuta con calma. Ma maestro, scusi, bisogna sapere un po' di musica o si può arrivare proprio solo con il desiderio di far parte di una banda e poi di imparare strada facendo? No, si parte col desiderio, con la volontà, che è la prima cosa importante, e poi si parte proprio da zero. La banda appunto offre questo punto di partenza molto fondamentale, che è appunto lo studio, che ne so, conoscere il pentagramma, sapere cos'è, così una chiave musicale. Insomma, senta maestro, perché io vedo Alberto che ha veramente gli occhi che gli brillano. Alberto non me lo prende se glielo mando qualche volta, eh? Magari. Ma perché no? Ma nel senso che c'è un limite d'età? Non lo so. No, che ha quanti anni Alberto? Alberto ormai ne ha fatti 45. No, va benissimo, siamo in una fascia bellissima. Infatti, tra l'altro, ci sono anche ultimamente anche dei grandi che stanno scrivendo, ho avuto anche delle sorprese, non pensavo che anche degli allievi che si iscrivono anche in età avanzata, diciamo comunque ad una certa età, poi riescono a ottenere anche dei risultati, anche con strumenti abbastanza difficili come il bombardino o o il trombone. No, insomma, Alberto sul bombardino non me lo vedo tanto, però Paolo, scusami, stavo pensando, non lo so come, non lo so, ma so che mi farebbe fare bella figura. Paolo, però, dato che noi parliamo soprattutto in questa trasmissione ai genitori, potrebbe anche essere una bella esperienza, cioè Alberto potrebbe iscriversi alla banda e accompagnare uno dei suoi quattro figli. Perché no, ma io credo che sia il massimo, il non plus ultra è l'avere in famiglia un papà e un figlio che seguono il corso della banda assieme, è bellissimo, perché voglio dire c'è una trasfusione quasi osmotica di cose, di emozioni, di pensieri, di esperienze, insomma è bello perché, come ha detto giustamente il maestro Antonio, non è necessario arrivare in banda con un minimo di conoscenza. Uno decide di entrare nella banda perché ripone in quella cosa delle aspettative, dei sogni, del sogno di divertirsi, di condividere la musica, eccetera. E uno arriva alla banda senza sapere assolutamente niente e vi assicuro che nell'arco di pochi mesi c'è la possibilità di entrare nelle fila della banda e suonare una marcetta, magari semplice, con gli altri musicisti, e poi piano piano iniziare a suonare anche le arie d'opera, i passi più importanti, con degli strumenti straordinari. Quando lei ha detto che come si sceglie lo strumento, l'abbiamo detto prima, il maestro voleva darmi il bombardino, il clarinetto, perché in quel momento evidentemente non c'erano altri strumenti, c'erano pochi che suonavano quello strumento, io avevo già la tromba, eccetera. Ma poi ho scoperto che in particolare il bombardino, lo consigliamo ad Alberto, è uno strumento bellissimo, perché il bombardino, quando ci sono i passi più lirici delle opere di Verdi, di Donizetti, di Puccini, eccetera, normalmente questi passi vengono sempre dati al bombardino, che quindi diventa uno strumento protagonista. Quindi in banda c'è anche questa possibilità, come dire, dei ruoli, dei personaggi, e ognuno in qualche modo sceglie il proprio ruolo, il proprio personaggio, la propria personalità, anche in funzione di quello che si è. Quindi questo trovo molto bello. Cioè, la banda è come una società piccola in cui ci sono dei ruoli, in cui ci sono delle relazioni, in cui ci sono delle gerarchie, e quindi tanto più la banda, soprattutto per un giovane, serve anche proprio per comprendere come funziona la vita, perché è un mondo societario comunque organizzato, perfettamente funzionale, che offre anche l'opportunità comunque di fare una prima esperienza di cultura, di mondo, che è fondamentale. Se poi questo arriva attraverso la musica, credo che sia bellissimo. Se poi il bimbo ha l'opportunità di condividere questa esperienza anche con il proprio papà o con il proprio fratello, beh, penso che questo possa essere la cosa più bella che uno possa avere, altro che giochi elettronici a casa. Ecco, Paolo, non aprire la cosa sui giochi elettronici, sennò con Alberto facciamo notte. Invece noi adesso facciamo una pausa e torniamo subito dopo insieme con Paolo Freso e il maestro Meloni. A tra poco. Questa casa non è un albergo, facci come vuoi. Siamo tornati insieme a Paolo Fresu, al maestro Antonio Meloni, ad Alberto Pellai, che ormai sta pensando al suo bombardino. Ma guarda, sto pensando al mio bombardino. Anch'io vorrei suonare. Ma stavo qualcosa. Anche pensando, pensa che lavoro educativo straordinario stiamo facendo con questa trasmissione. Io credo che troppi ragazzi e ragazze, magari attratti dalle stelle del talent show, sognano tutti di diventare cantanti da prima serata, da prime time, e probabilmente proprio la passione per la musica, il gusto di avere tra le mani uno strumento e inventare se stessi attraverso quello strumento, proprio come racconta Paolo Fresu nel suo libro, non l'hanno mai davvero provato. E pensa invece come i nostri amici Paolo e Antonio ci hanno proprio raccontato che incredibile viaggio alla scoperta del proprio talento, delle proprie competenze, un po' di se stessi è appassionarsi a uno strumento. Però Alberto, io ho un ragazzo che non si è lasciato, come dici tu, impressionare, conquistare dalle luci e dai giochi, quelli che a te non piacciono, PlayStation e altro, e si è laureato in psicologia, e da quando aveva 11 anni suona nella banda del suo paese, della Lunigiana. È in linea con noi Marco Folloni. Ciao Marco! Salve, ciao. Senti, sarai ad Alberto abbiamo detto che gli faremo suonare il bombardino. Tu hai l'onore di essere qui a parlare della tua esperienza nella banda del tuo paese con Paolo Fresu e il maestro Meloni, e quindi voglio dire, ti ho pescato, ma ti faccio anche un grande regalo. Sì, un grandissimo regalo. Marco, tra l'altro, lo abbiamo chiamato proprio perché ci sono un sacco di affinità con la storia di Paolo, nel senso che anche lui vive, nasce, cresce in un paesino della Lunigiana, sono 2500 abitanti e si è proprio questo mese laureato in psicologia, quindi è diventato tutt'altro che un musicista. Sei diventato un po' Alberto Pellai, ma che cosa suoni tu, Marco? Raccontaci. Io suono il saxofono contralto. Come hai deciso di entrare nella banda quando avevi 10-11 anni, Marco? Siamo entrati in banda un gruppo, eravamo un gruppo di amici, eravamo in 5-6 e siamo stati spinti sia dagli adulti anche e per l'interesse musicale, poi per imparare uno strumento. Cosa ha rappresentato appartenere alla tua banda? Senti, per te? Però, ti sta facendo un interrogatorio, sai, perché poi vuole chiedere il parere dei nostri esperti. Marco, però tieni duro che stai andando bene. Sta facendo il professore, Alberto. Dai, Alberto. Volevo proprio sapere cosa ha rappresentato la banda nella tua vita. La banda ha rappresentato fondamentalmente un momento di aggregazione con le persone del paese, un momento, un'opportunità per conoscere la musica oltretutto, poi è uno strumento attraverso i corsi che ci facevano anche il maestro della banda, e poi un'occasione per studiare appunto la musica. E per conoscere il mondo? Per conoscere il mondo abbiamo suonato in giro, siamo stati qualche volta a suonare più di una volta a Mirabilandia con le varie bande. Ci mettevano tutti insieme, suonavamo, siamo stati anche a Firenze e poi d'estate vedi, allora è proprio vero, come diceva Paolo, la musica, la banda è una scuola di vita, nella banda si cresce e con la banda anche si viaggia, e non solamente perché ci si sposta, ma proprio perché si viaggia, no? Un po' nella vita. Paolo, questo Marco in un certo senso così ci racconta quello che tu ci hai anticipato prima nel corso della tua intervista. Insomma, è un ragazzo che è cresciuto in una banda. Beh, bello. E poi tra l'altro è entrato anche lui a 11 anni, esattamente come me. Vedi? Beh, e poi c'è questa cosa del viaggio. Ciao Marco. C'è questa cosa del viaggio. Marco, perché non gli vengono neanche le parole. Con la banda, insomma, si viaggia con Paolo. Pullman. E quindi viaggiando col pullman, quale più bel viaggio di quello col pullman, in cui praticamente gli anziani si siedono dietro e fanno chiasso e raccontano tutte le storie divertenti delle bande, poi naturalmente, come dire, intortano i giovani, aggiungono i particolari, con anche un po' di bugie. Come i pescatori, no? Esatto, magari salgono sul pullman e dicono, ah, ma poi io durante la processione mi sono fermato, sono entrato in una casa, una signora mi ha offerto da mangiare e da bere, magari non è vero, però i giovani rimangono lì. E poi queste, noi potremmo scrivere, anzi propongo al maestro Antonio di scrivere una sorta di libro di appunti su tutti soscontos, come diciamo noi in Sardegna, divertenti dei grandi, perché poi diventano, come dire, ogni giorno naturalmente si aggiunge un particolare e una cosa, ognuno lo traduce da un altro punto di vista, per cui se la scrivete, se il maestro accetta, sì, maestro, va bene, promesso, cercherò di impegnare, ecco, poi noi la presentiamo, il mio primo libro, dai, ecco, noi vogliamo come l'anteprima, sì, per cui sì, venite a raccontarcela qua. Di questi viaggi ci sono delle cose che effettivamente poi vanno a perdersi, non si raccontano, invece bisognerebbe appunto scriverle, fissarle, documentarle. Bello, sì. Accettato. Paolo, stavi parlando di questo viaggio. Sì, cioè il fatto che il jazz italiano oggi gode di grande stima, sta diventando una musica popolare, una musica seguitissima e soprattutto molto ben vista fuori dall'Italia. La maggior parte dei fiatisti, cioè quelli che suonano il jazz, quindi trombettisti, sassofonisti, tromboni, eccetera, eccetera, musicisti straordinari veramente che si stanno facendo valere nel mondo, sono tutti musicisti che vengono dalle bande. Potrei fare un sacco di nomi, uno Gianluca Petrella, trombonista straordinario, Fabrizio Bosso, Flavio Boltro, Stefano Di Battista, ma Per carità, ne lascio troppi, probabilmente. Sono tutti musicisti che si sono fatti le ossa all'interno delle bande musicali, quindi la banda offre anche l'opportunità, come dire, di magari di diventare un musicista veramente famoso, conosciuto, perché è proprio la scuola per gli ottoni, bellissima scuola, quindi se non ci fossero le bande probabilmente oserei dire che anche il nostro jazz oggi non sarebbe lo stesso, quindi bellissima questa opportunità che la banda in qualche modo offre. Paolo, Antonio e Marco, voi siete tre uomini al nostro microfono e contemporaneamente Paolo citava tutta una serie di musicisti, anche loro tutti uomini. Ma la banda è un ambiente al maschile o si apre anche al mondo delle donne? Molte ragazze chiedono di entrare in una banda. E perché nella tradizione, nel nostro immaginario, lo vediamo come un mondo davvero molto al maschile? Ciascuno di voi ci dà una risposta. Iniziamo dal maestro questa volta. Maestro. Ma secondo me è un ambiente al 50 e 50, perché gli stessi strumenti secondo me sono... Io per esempio quando insegno di solito vado a insegnare ovviamente più che altro gli strumenti a bocchino, quindi la tromba e il trombone, e sono magari effettivamente un po' degli strumenti più maschili, anche se molti hanno il suono femminile, come la tromba per esempio, il trombone è poi già più maschile, mentre per esempio il flautino, oppure il clarinetto, il sassofono, soprattutto il contralto e il soprano, sono poi comunque una via di mezzo che possono essere suonate sia da maschi che da uomini che da donne. Però credo che la banda sia proprio un equilibrio, appunto, sì, anche in questo mette d'accordo tutti, insomma, non c'è una sorta di un aspetto maschile o femminile che in prevalenza, è abbastanza equilibrato. Quindi posso trovare, se vengo ad accompagnare Alberto, un posticino lo trovate anche per me? Certo, ma anche immediato secondo Va me, bene. Troviamo una soluzione, trasferitevi a Berchido in qualche... Ma guardi maestro, non lo dica forte perché noi veniamo. Veniamo di corso. Bene, noi siamo aperti, siamo disponibili. Bene, allora ne ha trovato due in più. Marco! Uomini, donne, tu come sei un ragazzo giovane. Nella nostra banda c'è una buona componente femminile. Sono lo dici presenti... con una certa soddisfazione, Marco. Sì. Come mai? Sì. Addirittura noi quando abbiamo iniziato il corso di solfeggio eravamo in cinque, tre erano ragazze e due eravamo due maschi. Tre ragazze, quindi nel corso di solfeggio addirittura una prevalenza femminile. E la situazione attuale della vostra banda di filattiera, come siete distribuiti maschi e femmine? La situazione attuale prevalenza maschile, però direi che il rapporto è un 30% 40% anche di donne comunque. Sia un po' più avanti con l'età, sui 30 anni. Ma come un po' più avanti con l'età 30 anni, Marco? Ma rispetto a me. Paolo, ti passo subito la parola perché noi siamo coetanei, tiriamoci un po' su, perché un po' più avanti con l'età 30 anni io c'ho un piede nella fossa. Paolo. Beh no, nella banda di Berchida mi sa che non c'è rischio, perché veramente molti sono giovanissimi. Ripeto, abbiamo fatto questo concerto all'Alba quest'estate ed erano entrati 10-12, non mi ricordo quanti, veramente ragazzini e ragazzine, molto molto giovani. Mi sembra che la percentuale sia più o meno, forse nella banda di Berchida, ha già risposto Antonio, ci sia una percentuale di maschietti, diciamo così, un po' superiore, però le bande in genere, come dire, non hanno problemi, come dire, di quote rosa, nel senso che sono ben, cioè la banda insomma è veramente una cosa per tutti, quindi non ci sono né problemi di età né problemi di sesso. Una volta si pensava per esempio che le donne non potessero suonare la tromba o magari uno strumento come il basso tuba, immagino, perché insomma è uno strumento grosso eccetera, però in realtà potenzialmente non è vero, perché le donne possono suonare qualsiasi strumento e possono suonarlo benissimo. Non è vero che per suonare la tromba ci vogliono tanti polmoni, io sono piccoletto e Antonio anche, non è questo il problema, ci sono delle tecniche oggi per apprendere gli strumenti, per cui le donne possono suonare veramente qualsiasi strumento e farlo con la stessa capacità e con una sensibilità addirittura particolare e diversa, per cui insomma, mi sembra che il problema proprio della quantità di donne rispetto agli uomini non si ponga, perlomeno nelle bande. Allora io direi, Alberto, se tu sei d'accordo, ma se, tanto lo so che lo sei, ma comunque è uguale, di salutarci e andiamo ancora a farci un secondo regalo, perché chiudiamo con le note di Paolo Fresu, che abbiamo avuto l'onore di avere in linea con noi per tutta la trasmissione, che ringraziamo, e possiamo dare quindi appuntamento per il concerto della banda di oggi, del 26 di dicembre, per chi passasse, Paolo? Sì, sì, sì, naturalmente il concerto non sarà proprio quello della banda, ma sarà questo combo, diciamo così, comunque con una buona, come dire, rappresentanza. Una buona rappresentanza della banda. Ci sono tre elementi, tre trombettisti. Il concerto inizierà in serata. Ecco, allora anche un applauso anche al maestro Meloni. Grazie a Paolo Fresu. Marco, grazie per essere stato con noi. Va bene. Grazie ancora, buone grazie feste a voi. Alberto, dobbiamo salutarci. È un bel modo per salutarci nell'ultima puntata di quest'anno, ma l'anno prossimo troveremo tanti altri modi meravigliosi per salutarci, insieme, per contarcela insieme, su. Sì. Grazie a voi per l'ascolto. Alberto, noi ci sentiamo il prossimo sabato. Grazie e buona giornata.